su musica a macchina c'è. Sciufferò, si viaggia senza mai partire, si sogna senza mai dormire. Sciufferò. Musica macchina. Ciucci, come si chiama? Ciuffi. Ciuffi, ciuffi. Musica macchina. Ciuffi Rouge. Ciucci, come si chiama? Ciuffi. Ciuffi, ciuffi. Ciao, gente!